massa e a questa massa si presume che deve partecipare a quegli interessi, magari non i gruppi che bisogna parlare con quello che sicuramente l'investimento sarebbe importante. Passiamo la parola a Ommo della Polveriera e sicuramente ci potrà dire qualcosa sulla vicenda della Polveriera e sul destino di quest'area vitale del centro storico di Certificato. Sì, allora, come abbiamo visto, appunto, c'è all'interno di queste realtà, le varie realtà che si sono trovate anche in parte a essere a comporre questo reset, rappresentano appunto in parte spazi, no, reali nella città, che in varie forme propongono un'urbanità diversa. Ci sarà un intervento di Mondelli, ma sempre non è stato specificato, il primo giorno della tre giorni è prevista da parte della città metropolitana una nuova asta per la vendita di Mondeggi, comprensiva anche della villa, e quindi poi anche su questo, cioè, si andrà ad operare, quindi si sta cercando di mettere insieme quelli che sono comunque gli attacchi a qualsiasi modello alternativo di vivere la città. Nello specifico, quello che riguarda, per quanto riguarda la Polveriera, che comunque è diventata un po' anche per adesso appunto luogo di riunione sia del gruppo, e comunque si è pensato di dare un giorno la domenica come punto di base di questo carnevale, di questa azione appunto nel centro storico. È importante, diciamo, definirne il ruolo, perché sì, effettivamente è lo spazio sociale rimanente, diciamo, nel centro storico, oltre a Leone inoltrato, e perché appunto uno spazio sociale dovrebbe lottare per restare nel centro storico quando ci sono tanti altri spazi fuori. Sì, abbiamo visto che appunto tutto quello che muove questa grande assalto è proprio appunto il patrimonio dei beni comuni che la città offre, che questa città offre. Sicuramente appunto il suo fulcro è nel patrimonio del costruito storico della città, del centro storico, che appunto presenta evidentemente una qualità a livello di visibilità, di spazio, appunto adatto a una socialità che non è più scontata, che non è più una cosa di cui è dotata la città in senso lato, ormai è trasformata appunto in un territorio urbanizzato, disperso, quindi fisicamente, e che quindi appunto viene riconosciuto questo valore da un punto di vista di mercato, e evidentemente anche da un punto di vista di poteri statali, visto che comunque è questo che si va a implementare. Se vale questo, cioè se si può svuotare i suoi abitanti e si può dargli comunque un valore, significa che questo tessuto storico ha un valore intrinseco, ha un valore che è dato effettivamente dal fatto di essere stato costruito, sul valore d'uso collettivamente nei secoli in maniera progressiva, formando degli spazi che sono plasmati su quella che era il modo di vivere di questa città e di questa cultura locale, diciamo, di cui si hanno ancora magari alcune rimembranze lontane. E quindi questa città mantiene questo valore, mantiene il valore di essere qualcosa di diverso e di fare effettivamente città. E fare città vuol dire appunto l'incontro, vuol dire appunto la vita che permette uno spazio di questo tipo, sia nella quotidianità dell'abitare, ma soprattutto appunto come spazio pubblico per il quale è riconosciuto evidentemente anche dalle istituzioni, visto che le uniche aree pedonali che vengono fatte sono tutte nel centro storico. Quindi evidentemente il luogo per l'incontro è il centro storico. Quello che però vediamo è l'esatto contrario alla sparizione dello spazio pubblico da abitare. se quello che rimaneva di vita del, cioè per cui rimaneva come riferimento al centro era la vita comunque delle piazze, che appunto in quanto spazio pubblico un po' per eccellenza si continuavano a essere il luogo di ritrovo, ma anche di incontro tra anche diverse classi sociali, tra persone che comunque appunto anche fuori di quello sarebbero rimaste rinchiuse nelle proprie differenze, no? Quindi senza riuscire a creare una vera e propria collettività. Fino a pochi anni fa, questo ancora per Firenze, caso anche strano rispetto appunto al panorama italiano, aveva ancora questo tipo di vita. E bisogna dire che c'è stato un accanimento per cercare di finire questa cosa, che si è diciamo concluso forse quest'anno nel suo apice, con la storia dei panini, dove non si può nemmeno sedere e mangiare un panino, dove pure le scalinate di Santo Spirito, che da quando sono state costruite servono per sederci, non ci si può più sedere, e quindi viene cancellato completamente lo spazio pubblico, che non è lo spazio che se è di proprietà pubblica rappresenta uno spazio pubblico, nel momento in cui non ti è permesso di agirci liberamente. E quindi da qui magari l'importanza di uno spazio liberato all'interno del centro storico, come è appunto la polveriera, che cerca di appunto convivere sia con uno spazio che ha una storia antica dal 400, ma anche una storia moderna dagli anni 60-70, dopo l'alluvione, quando questo è stato un luogo di riferimento a livello studentesco, e cerca appunto di costruire in questi spazi una possibilità di fare cultura compresa con anche il modo di vita che di fare cultura nel senso pieno, quindi di poterla vivere questa cultura, non soltanto parlare, e di farlo in relazione con la città. La polveriera ha per esempio a varie scale di interazione. C'è stato anche per dire il lavoro quando si è aperto questo spazio dal 2014, per esempio, per lavorare sul quartiere con l'uso del chiostro, con il mercato di Gemino clandestino e varie altre iniziative che comunque aprivano una piazza nel centro storico, che ovviamente poi c'è stata chiusa dalle autorità. Quindi sì, la necessità di avere dei luoghi dove si possa effettivamente mettere in atto un vivere collettivo, appunto secondo quello che è detta la comunità stessa che riabita. Da cui l'origine stessa del nome della polveriera, che si chiama polveriera spazio comune, proprio perché su questo discorso che è nato nel 2014, attorno a vari discorsi anche sui beni comuni che avevano già un certo corso, e in particolare in questo luogo quello che si è scelto è quello di incentrarsi sullo spazio stesso, cioè dicendo lo spazio fisico diventa riferimento per quella collettività che ci andrà a vivere rispetto ad altri percorsi di collettivi che nascono con altre premesse. Ed è anche per questo che la polveriera è diventato un punto di riferimento a livello cittadino, dove molte realtà riescono a vivere a dire, proprio perché appunto per la maniera di partire dallo spazio e per il fatto di trovarsi comunque nel centro, che quindi evidentemente, perché insomma queste stanze non è che abbiano delle proprietà speciali, cioè proprio spazi di una sostanza creativa in particolare, perché cioè, nel senso, pensiamo all'enormità di spazi vuoti che ci possono essere qua, cioè nelle periferie soprattutto. Sicuramente cioè, è la vita che c'è dentro, il modo in cui una relazione appunto diretta di valore d'uso che la porta ad avere questa ricchezza, ma anche il fatto di trovarsi al centro, appunto in un luogo dove che diventa luogo di incontro, luogo transitato da persone diverse che riescono anche a creare dei momenti di sintesi e quindi a generare insomma, nuove opportunità. Quindi ovviamente la polveriera, insomma, questo discorso di Rete 7 ha aderito subito con la volontà, insomma, insieme a tutti gli altri, di poter costruire una città appunto diversa dove si possa effettivamente mantenere non sopravvivere, magari un giorno di poterlo fare anche in piazza, quello che facciamo qua adesso, no? Anche la prima. Volevo aggiungere una cosa bellissima, che è in relazione appunto a un po' al discorso di lavorare tutti insieme e continuare magari per corsi partecipati. Sarebbe per chi è interessato, comunque c'è sempre la possibilità di partecipare alle riunioni di Rete 7, verso l'organizzazione del primo 2 e 3 marzo, che una si terrà questo martedì qui in Corderiera alle ore 5. Poi se sei magari interessato alla parte più creativa della comunicazione, eccetera, giovedì prossimo alle 5 sempre si terrà appunto la parte invece di per definire la strategia di comunicazione. Chiunque è interessato al tema ed è interessato anche in senso laboratoriale, in senso laboratoriale, a mettersi in connessione, imparare l'uno dall'altro, eccetera, super benvenuto a partecipare. Se volete sapere di più, anche dopo. Sì, come ci eravamo detto all'inizio, questa riunione dovrebbe avere anche una spinta all'organizzazione, quindi tutti coloro e tutte coloro che sono interessati a partecipare sui vari temi che stiamo esponendo lasciano, come si è fatto? Si è lasciato un foglio con gli indirizzi mail e vi inseriamo nella mailing list, quindi del nucleo Fiorentino 7.